Su info salute e società punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Ben ritrovati da Soinfo, la rubrica radiofonica settimanale che vi accompagna nell'approfondimento dei temi della salute della società, osservandoli con sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Continuando il nostro percorso di approfondimento dedicato alla menopausa, oggi, grazie alla dottoressa Micaela Bertezzolo, dirigente medico del reparto di ginecologia dell'ospedale di Conegliano, analizzeremo quali siano i sintomi e i disturbi che precedono la conclusione dell'età fertile, detta premenopausa. Che cosa intendiamo con il termine climaterio e con il termine menopausa? Andiamo a distinguere questi due termini. Per menopausa si intende la cessazione dei cicli mestruali, quindi l'ultimo ciclo che la donna ha avuto nella sua vita. E vi è un'ipotesi per cui l'età della menopausa sembra essere geneticamente determinata. In media si aggira attorno ai 50-52 anni. Invece il climaterio in campo medico si intende il periodo che precede e segue la menopausa, quindi l'ultimo ciclo, e nell'uomo è lo stesso periodo che quindi precede l'andropausa. In questo periodo della vita abbiamo un'iniziale involuzione e poi la cessazione dell'attività funzionale delle due gonadi, ovaie nella donna e testicoli nell'uomo. Nella donna, quindi, il climaterio inizia a manifestarsi verso i 45-50 anni. L'ultima mestruazione, quindi, preceduta da un periodo variabile tra 5, 6, anche 10 anni, in cui i cicli cominciano a diventare progressivamente sempre più irregolari e termina con l'ultimo flusso mestruale, la menopausa, appunto. A questo fenomeno si associa tutta una serie di disturbi, con sintomi diversi a carico di vari organi e apparati, e nel loro insieme costituiscono quella che viene detta sindrome climaterica. Infatti, per descrivere questa fase della vita e il corteo di sintomi che la caratterizza, è più corretto parlare di sindrome climaterica. È determinata dallo squilibrio che si instaura nell'apparato endocrino, quindi ormonale, e in diversi settori del metabolismo, per il venir meno della funzione endocrina delle ovaie, e si possono avere disturbi della circolazione periferica, quali le vampate di calore, la sudorazione notturna, disturbi cardiaci quali il cardiopalmo, la tachicardia, le aritmie, alterazioni della pressione arteriosa, disturbi neurovegetativi quali la cefalea, la nausea, le vertigini, modificazioni neuropsichiche, instabilità emotiva, alternanza di depressione ed euforia, fino anche a vere e proprie psicosi, seppur rare. Accanto a questi sintomi, poi, vi sono modificazioni profonde dell'organismo, quali l'ipotrofia delle mammelle e degli organi genitali, tendenza all'obesità, diminuzione del contenuto di calcio nelle ossa, specialmente a livello di vertebre e bacino, fino ad arrivare all'osteopenia e al grado più avanzato, cioè l'osteoporosi. Ancora vi può essere presente un aumento del colesterolo nel sangue e quindi a conseguenza un aggravamento di eventuali alterazioni aterosclerotiche delle arterie. Una caratteristica della sindrome climaterica è che tutti questi disturbi che abbiamo elencato possono essere presenti contemporaneamente o isolati, si possono manifestare in modo lieve o accentuato, tanto da trasformare la vita e la personalità della donna. Quindi, nel momento in cui compaiono uno o più di questi sintomi, si deve pensare all'inizio del climaterio. Per limitarne le conseguenze, si può ricorrere alla somministrazione di ormoni estrogeni, da soli o associate a piccole quantità di androgeni e di progestinici, finché l'organismo ha superato questo periodo. In seguito a questo periodo vi è una fase cosiddetta di adattamento, fino a raggiungere un nuovo equilibrio fisico e psicologico. E per fare un piccolo parallelo con il maschio, nell'uomo il climaterio rappresenta l'involuzione dei testicoli, che inizia in genere in epoca più tardiva rispetto alla donna e quindi all'involuzione delle ovaie, e di solito avviene in maniera più lenta e graduale. Nel maschio, infatti, la produzione di spermatozoi e l'attività endocrina dei testicoli possono essere ancora presente a intorno ai 70-80 anni, mentre nella donna, con la menopausa, la produzione degli ovociti nelle ovaie cessa completamente. Quindi, per concludere, le donne sintomatiche che si riconoscono nei sintomi che abbiamo presentato si devono rivolgere al proprio curante o al proprio ginecologo per la prescrizione di esami ed eventuali terapie per affrontare al meglio questa fase della loro vita. Info, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana.